sconvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi, coinvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi, coinvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi, coinvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi. Mi sembri angolo drammatico, mi risulta matematico, in un labirinto elettrico. La sua scia, una stella silenziosa, all'impatto pretenziosa, può segnare il tuo destino, se le resti un po' vicino. Coinvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi, coinvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi, coinvolgi, travolgi, sconvolgi, riavvolgi, coinvolgi, travolgi. Thank you.